Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Conto alla rovescia per il debutto ufficiale della Commissione parlamentare antimafia europea. Il Parlamento europeo ne ha approvato l'istituzione al termine di un lavoro iniziato nel 2010 e conclusosi il 25 ottobre 2011 con l'approvazione all'unanimità della risoluzione sul crimine organizzato dell'Unione Europea. La relatrice è stata l'onorevole Sonia Alfano dell'IDV. Entro pochi giorni saranno nominati e presentati 45 membri che dureranno in carica un anno, salvo proroga, e che saranno proporzionalmente scelti sulla base della rappresentatività dei partiti e delle coalizioni presenti a Strasburgo. La prima riunione della Commissione è attesa per la fine di aprile. Vasti compiti, analisi e valutazione dell'impatto sulla UE e sui singoli Stati membri, non solo della criminalità organizzata ma anche della corruzione e del riciclaggio di denaro, proposta delle misure per prevenire e contrastare le minacce a livello internazionale, analisi e valutazione dello stato di attuazione della legislazione dell'Unione in materia di criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio, al fine di garantire omogeneità e compatibilità normativa, esame e controllo del ruolo delle attività delle agenzie dell'Unione nel settore degli affari interni, Europol, COSI ed Eurojust. Plaudi all'istituzione il procuratore di Torino Giancarlo Caselli. Che oggi l'Europa abbia una commissione antimafia, ha dichiarato, è un fatto molto importante, uno straordinario passo in avanti delle istituzioni europee contro tutte le mafie. Che magistrati e poliziotti possano lavorare insieme sulla criminalità transnazionale è un progresso considerevole. Certo, il fatto che la commissione sia composta da molti italiani e pochi stranieri fa riflettere. Il crimine organizzato non è un problema solo italiano, ma di positivo c'è che l'Italia è anche il paese dell'antimafia. L'antimafia sociale, l'antimafia dei diritti. Buona vita e a domani.